Friuli nel mondo, 248esima trasmissione dedicata agli emigrati, voci canore dell'altro Friuli. Come già avete avuto occasione di ascoltare e di apprezzare alcuni canti eseguiti dai gruppi corali di Toronto e di Windsor in Canada e di Frauenfeld in Svizzera, così oggi arrivano voi, cari emigrati, le melodie interpretate da quattro lavoratori appartenenti alla grande famiglia di nostri emigrati in Argentina. Anch'essi, superando difficoltà, distanze e sacrifici non lievi, hanno saputo e sanno ritrovarsi periodicamente per fondere sempre più e meglio le loro voci e i loro cuori nel ricordo nostalgico della patria lontana, ravvivandone lo spirito con le loro esaltanti esecuzioni ad ogni incontro delle nostre comunità friulane nell'immensa Repubblica del Plata. Ascoltiamo gli amici di questo caratteristico complesso in una composizione soffusa di toccanti ricordi dell'infanzia e della gioventù ormai lontane. Glesiute me di Torre. Dom, dom, dom. Vagni, vagni, uze, luft, pa. Nel vasto repertorio del Quartetto Armonia di Buenos Aires occupano un posto preminente le composizioni del compianto maestro Luigi Garzoni, di cui ora ascolterete questa romanza che al pari di Glesiù Temè non è tanto nota. Rosis di Garzoni. Eccovi ora, nell'armonizzazione di Resch, questa fiorita di canti popolari che indubbiamente conoscerete. Echi Veneto Giuliani. Dom, dom, ding, dom, dom, dom, ding, dom, la chiesetta alpina dove già rintocca una campana. Nel vederla così in alto pare in cielo e più lontana. Col suono pare che dica ancor nel dolce vespro matutino alla chiesetta tutta il fior ritornerà il mio bel e la campana con amor per quelle nozze suonerà. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, va ben che non si bagna, che lo voglio regalare, lo voglio regalare, perché è un bel mazzetto, lo voglio regalare, perché è un bel mazzetto, lo voglio regalare, perché è un bel mazzetto, voglio darlo al mio amoretto, questa sera quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, boom. Se ne va, e se ne va, e se ne va. piangere, sei bella, sei cara, bella non piangere, non sospira, non sospira. Sul ponte di L'espressività e la vivacità del quartetto Armonia emergono in questo pezzo caratteristico, il Chalzumit di Candotti. Lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, che il puaron, che il puaron, che il puaron, che il puaron, calleci, calleci, calleci, se padieni sottis. Lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca. Cialai, cerobe, cialai, cerobe, cialai, cialai, cialai, cerobe, cialai, cerobe, cialai, cerobe, cialai, cialai, cialai, cerobe, cialai, cialai, cialai, cialai, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, che il puaron, che il puaron, che il puaron, che il puaron, calleci, calleci, calleci, se padieni sottis. Lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca. Chalai, cerobe, chalai, chalai, chalai, cerobe, chalai, cerobe, chalai, chalai, chalai, cerobe, chalai, chalai, chalai, chalai, chalai, sezoso. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.